vediamo di completare la parte relativa al magistero recente, prendendo alcuni spunti più anche specifici che ci vengono da Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI. Poi una piccola anche accenno a un autore che è Marcello Bordoni, un teologo italiano bravo, in gamba, che può aiutare a capire come, in che senso, uno dei sensi in cui si dice che il mistero di Cristo, la redenzione operata da Cristo, è qualcosa che supera di gran lunga il mistero del male, del peccato originale, di tutti i peccati dell'umanità. Si dà un'idea molto bella. Le prossime due lezioni saranno, poi le due lezioni successive saranno quelle conclusive, che forse finiremo uno o due giorni prima, adesso non ricordo come è previsto, e con così un tentativo anche mio di dare un po' una sintesi di quello che abbiamo detto, e anche però riunendo tutti gli spunti anche interessanti che abbiamo trovato del Catechismo, di Giovanni Paolo II, di Benedetto, vedere un po' come in alcuni punti, ecco, noi possiamo cercare di comprendere più a fondo la realtà del peccato originale, soprattutto nell'aspetto dell'ereditarietà, per cosa vuol dire che noi lo riceviamo come... Bene, allora andiamo a Giovanni Paolo II. Lui ha svolto questo tema approfonditamente nelle catechesi del 1986, catechesi sul credo, e nel 1986 si è occupato, tra le altre cose, del peccato originale, però poi ne ha parlato anche in altri luoghi, quindi io mi riferisco qui a un articolo che penso di avervi dato anche nella chiavetta. L'autore è Barrajón, Il peccato originale nel magistero di Giovanni Paolo II. Non sono sicuro. C'è? Ecco. Lì sono alcune pagine che sintetizzano un po' il pensiero di Giovanni Paolo II, attingendo ai vari punti, ai vari documenti, soprattutto queste catechesi sul credo. Allora, io toccherò solo alcuni aspetti in cui mi sembra che quello che dice Giovanni Paolo II chiarisce o approfondisce le cose che già abbiamo anche visto in tante occasioni. Un punto sulla natura del peccato originale di Adamo, della trasgressione di Adamo. Il Papa dice che nel primo peccato contempliamo per la prima volta come l'uomo, appena venuto alla vita per l'azione creatrice divina, vuole vivere in modo autonomo, indipendente dal creatore. Anzi, egli vuole essere colui che determina ciò che è bene e ciò che è male, rifiutando la sua natura umana come natura creaturale, ed ergendosi come arbitro unico del suo destino. Quindi c'è un voler fare da sé, un voler essere autonomo, molto sufficiente. E in questo porsi dell'uomo così nei confronti di Dio è un atto evidentemente di disobbedienza, ma dice il Papa è anche l'espressione di indifferenza nei confronti di Dio, come dimenticanza e indifferenza di fronte a Lui, quasi che Dio non meriti alcun interesse nell'ambito del disegno operativo dell'uomo. Cioè, l'uomo effettivamente è come se si volta le spalle a Dio e dice adesso faccio io, mi occupo io di quello che devo fare. E oltre che però al tempo stesso in cui è una disobbedienza, una mancanza di fiducia nei confronti di Dio, l'uomo, dice il Papa, si disumanizza, sfigura il suo essere immagine e somiglianza di Dio. Il peccato è una diminuzione per l'uomo stesso. Egli finisce per perdere anche se stesso quando si ribella contro Dio. questo lo dirà molto bene con alcune parole poi Ratzinger, poi vi citerò alcune parole di questo. Quindi c'è un po' tutto in questo, cioè voler essere autonomo, essere Dio senza Dio, e l'uomo nega la verità di se stesso, così, quindi nega la sua realtà creaturale, possiamo dire anche recide la relazione con Dio, che invece è quella vitale per lui, e quindi perde se stesso, sfigura se stesso. Il peccato rende l'uomo schiavo perché capovolge la relazione evangelica di padre-figlio in quella hegeliana di padrone-servo. Questo lo dice, viene da varcare la soglia della speranza. Più o meno questo sulla natura del peccato originale di Adamo. Poi la natura di questo peccato si ritrova in fondo come radice in ogni nostro peccato, magari non in modo esplicito. Poi un secondo punto, il Papa riconosce la difficoltà dell'idea di un peccato ereditario che si eredita. Lui lo dice chiaramente, dice: la cultura moderna solleva forti riserve nei confronti del peccato originale. Essa non riesce ad ammettere l'idea di un peccato ereditario connesso, cioè, con la decisione di un capostipite e non con quella del soggetto interessato. Questo mi sembra comunque uno dei punti anche che meriteranno un po' un tentativo almeno di riflessione anche nelle ultime lezioni che cercherò un po' di fare. Ritiene la cultura moderna che una simile concezione contrasti con la visione personalistica dell'uomo e con le esigenze che derivano dal pieno rispetto della sua soggettività. Cioè, l'uomo è o no persona, è soggetto, è padrone di se stesso e dei propri atti? Perché deve ricevere le conseguenze dell'atto di un altro? Questo è il punto. Quindi il Papa questo lo riconosce, però dice, tuttavia, l'insegnamento della Chiesa sul peccato originale può rivelarsi estremamente prezioso per l'uomo di oggi, il quale, avendo rifiutato il dato della fede in questa materia, se non si accoglie il dato di fede che esiste un peccato originale che è in noi, non riesce più a darsi ragione, l'umanità, dei risvolti misteriosi e angoscianti del male di cui fa quotidiana esperienza. E finisce l'umanità per oscillare tra un ottimismo sbrigativo e irresponsabile e un radicale e disperato pessimismo. Cioè, se togliamo la consapevolezza che in noi c'è, quello che Benedetto XVI dice come una goccia di veleno nella nostra umanità, se c'è l'inclinazione al male, allora non riusciamo più a decifrare veramente chi siamo, e si può oscillare tra un ottimismo sbrigativo e irresponsabile, dimenticando che nell'uomo c'è anche questa inclinazione al male, e invece un pessimismo disperato. Poi Giovanni Paolo II poi sviluppa le sue catechesi spiegando i vari aspetti del peccato originale. Quindi c'è effettivamente un po' una difficoltà di comprensione di un peccato ereditato, però non ci possiamo rinunciare, dice, fino a questo momento. Per toccare un altro punto interessante per noi, per quello anche che abbiamo detto varie volte in passato, Giovanni Paolo II afferma in modo chiaro, rifacendosi a tutta la tradizione teologica e dottrinale del passato, lo stato di giustizia originario. Dio creò l'uomo a sua immagine, dotandolo non solo della vita naturale, ma anche della vita soprannaturale, quindi la grazia, e di una serie di doni che, senza essere soprannaturali, perfezionano la natura umana nella sua stessa linea e sono stati chiamati doni preternaturali. Questo è quello che dice il commentatore, questo Pedro Barracón. Adesso leggo una citazione di Giovanni Paolo II. A causa del peccato, Adamo perse ciò che non apparteneva alla natura umana intesa nel senso stretto della parola, cioè integritas, santitas, innocentia, justitia. L'uomo fu privato dei doni soprannaturali e preternaturali che facevano parte della sua dotazione prima del peccato. Inoltre subì un danno in ciò che appartiene alla natura stessa. E qual è questo danno? La triplice concupiscenza, che non corrisponde alla pienezza dell'immagine di Dio, ma invece ai danni, alle deficienze, alle limitazioni che apparvero col peccato. Quindi lo stato di giustizia originale per Giovanni Paolo II è un dato che lui afferma. Ecco, vediamo allora poi il peccato originale in noi, non in Adamo ma in noi, in che cosa consiste. E qui ritroviamo fondamentalmente quello che abbiamo visto sul catechismo, anche quasi nei termini, molto simile. Il fatto che il peccato originale non è in noi una colpa personale e che quindi è peccato in senso analogico, nel senso che peccato in senso proprio è il peccato che io commetto volontariamente, peccato personale, peccato attuale, anche si può dire. Invece il peccato originale non è questo tipo di peccato. Quindi, peccato in senso analogico, in nessun discendente di Adamo possiede il carattere di colpa personale, questo è citato esattamente così più o meno nel catechismo della Chiesa Cattolica. Giovanni Paolo II usa poi l'espressione che è un peccato di natura, rapportabile analogicamente al peccato della persona. Peccato di natura è un termine che usava anche Tommaso, che viene dalla tradizione. Il catechismo non lo ha mantenuto così in questi termini, il catechismo preferisce dire che il peccato originale è un peccato contratto, non commesso, uno stato e non un atto. Non parla tanto di peccato di natura, che forse effettivamente è un termine più una categoria scolastica che... Poi dice una cosa che a mio parere è molto interessante, perché è già una luce per capire il motivo di questa ereditarietà del peccato. Perché Dio permette che il peccato di Adamo influisca poi anche su di noi, nel come noi riceviamo la natura. Dice questo, noi riceviamo in eredità una natura priva della grazia originale. La mediazione umana, che nel piano originario di Dio doveva essere mediatrice di grazia, è fallita sin dall'inizio. Quell'idea per cui Adamo ed Eva avevano la grazia e la santità originali non solo per sé ma anche per noi. Perché? Perché Dio vuole che ci sia una mediazione umana nel trasmettere il bene, diciamo, da un uomo all'altro. Dio conta sulla mediazione umana. In questo caso la mediazione cos'era? Era che Adamo doveva essere mediatore, Adamo ed Eva dovevano essere mediatori della grazia e anche del resto dei doni dati all'umanità per tutta la famiglia, diciamo, per tutti i figli. E sempre con parole analoghe dice: il peccato originale ci parla di questa profonda unione di tutti gli uomini che Dio ha voluto come mediatori di grazia per gli altri. Ecco, questo credo che sia un punto profondo che rivela l'intenzione di Dio nel creare gli uomini, non singoli, ma un'umanità, e che può dare ragione, aiutare a comprendere il perché Dio permette che a causa di un altro io abbia, diciamo, dei danni, riceva dei danni. perché quello era, doveva essere mediatore di grazia, così come io sono. Ciascuno di noi può essere mediatore di grazia nei confronti degli altri, eh? Mediatore del bene, mediatore della verità, mediatore. Qui questo punto lo cercherò un po' di approfondirlo anche nelle ultime due lezioni. E poi beh, un ultimo punto che volevo toccare era: noi ereditiamo quindi il peccato originale, non ha carattere di colpa. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che l'uomo nasce senza la grazia santificante e con una natura ferita, indebolita anche nelle sue forze naturali. C'è la stessa idea del peccato originale in noi come privazione, non tanto come colpa, anzi si dice esplicitamente, non è una colpa personale, è una privazione, la privazione della grazia e della... Questo è molto, mi sembra molto interessante per non vedere, non avere l'idea che, come dire, anche noi siamo puniti a causa di Adamo, Non è una punizione. Dio permette che a causa di Adamo non ci giunga quello che avrebbe dovuto giungerci, qui noi ne siamo privi di qualche cosa. Privi della grazia e della giustizia originale, quindi con una natura concupiscente e soggetta alla morte. Un punto che per me è interessante, perché l'abbiamo toccato varie volte: la morte, è intesa in senso fisico, appare come conseguenza del peccato originale. Cioè, Giovanni Paolo II dice: la morte appare come, a partire dal peccato, la morte appare come un tragico salto nel buio, che significa che la morte acquista un carattere più tragico, ma non vuol dire che prima non ci fosse, perché esplicitamente lui dice: col peccato originale questa esenzione, cioè l'esenzione dalla morte, cessò di essere il privilegio dell'uomo. La vita sulla terra è stata sottoposta a molte sofferenze e alla necessità di morire. Quindi questo Giovanni Paolo II lo afferma in modo chiaro. Cioè, dici che l'esenzione della morte era un privilegio dell'uomo. L'esenzione dalla morte era un privilegio dell'uomo prima, che con il peccato non è più. Quindi la morte prima poteva non esserci. Certo, lui afferma quello che... Anche se tutta la che non c'era, esattamente, poteva non esserci, ma... Dice che l'uomo era esentato dalla morte, e questo non per una proprietà della sua natura, ma per un dono di Dio. Quindi la natura umana di per sé non è immortale, La natura dell'anima sì. Siccome l'uomo è uno, anima e corpo, invece la morte, proprio come separazione dell'anima dal corpo, è qualcosa di naturale. Però l'uomo era esentato da questo, Quindi poteva non morire, avrebbe potuto rimanere in questa condizione se si manteneva nella relazione con Dio, che Dio aveva voluto e che desiderava. Lo dico perché mi sembra un punto importante sempre nel famoso confronto con un po' la visione scientifica dell'origine dell'uomo, visione per la quale è difficile concepire come un uomo fatto di carne e ossa, come gli altri esseri viventi della Terra, possa non morire, possa essere, che in effetti non è una cosa banale, però appunto... tutta la tradizione della Chiesa, confermata sia a Trento sia anche nel Magistero recente, continua a sostenere che la morte prima del peccato originale non doveva esserci, l'uomo sarebbe passato alla gloria senza morire. E ecco, direi che questi sono, diciamo, gli spunti un po' che possiamo raccogliere più importante. Poi Giovanni Paolo II dice anche altre cose molto belle, però per limitarci un po' a quello che è interessante per noi. Passiamo a Benedetto XVI. Io citerò una cosa di lui come Papa, che è una catechesi del 2008, una delle catechesi su San Paolo, quando lui commentava San Paolo. La data esatta è 3 dicembre del 2008. Indovinate che lettera di San Paolo stava commentando in questo Romani. Romani, bravissimi siete. Romani, i versetti dal 12 al 5, da 5:12 a 21, 5:21. E allora il Papa tratta del rapporto tra Adamo e Cristo, che sono è al centro di questi versetti di San Paolo. E dice, poi citerò anche un'altra cosa che invece è dell'85, quindi quando non era Papa, e sono le cosiddette lezioni carinziane, che sono state pubblicate o ripubblicate in italiano da poco in un libro di cui Don Giuseppe Tanzella ha curato, anche ha fatto una prefazione o introduzione, non mi ricordo come la chiama, ampia. Ed è uscito proprio direi nel 2012. Progetto di Dio, meditazioni, è un sottotitolo, comunque, Progetto di Dio. Allora, nella catechesi come Papa, il concetto fondamentale che il Papa aiuta a inquadrare è questo. Si chiede, oggi dobbiamo domandarci, ma che cos'è questo peccato originale? Che cosa insegna San Paolo? Che cosa insegna la Chiesa? È ancora oggi sostenibile questa dottrina? Molti pensano che alla luce della storia dell'evoluzione non ci sarebbe più posto per la dottrina di un primo peccato, che poi si diffonderebbe in tutta la storia dell'umanità. E di conseguenza anche la questione della redenzione e del Redentore perderebbe il suo fondamento. Papa espone la difficoltà attuale. Dunque, esiste il peccato originale o no? Allora risponde in due modi. Dice, in primo luogo c'è un aspetto empirico, un dato di fatto, una constatazione che dobbiamo fare. E dice, il dato empirico è che esiste una contraddizione nel nostro essere. In ogni uomo che sa che deve fare il bene e intimamente lo vuole anche fare, ma nello stesso tempo sente anche l'altro impulso di fare il contrario, di seguire la strada dell'egoismo, della violenza, di fare solo quanto gli piace, pur sapendo di agire così contro il bene, contro Dio e contro il prossimo. Insomma, poi il Papa illustra un po', no? Le conseguenze di questa divisione che c'è nell'uomo, che l'uomo sperimenta e che si riversa poi anche nella sulla società, sulla vita. Quindi esiste questo aspetto empirico che dice è innegabile, questo è innegabile. Allora, la questione è come si spiega questo male? Come lo spieghiamo? E dice, nella storia del pensiero c'è stato, in fondo, oltre a quello della rivelazione cristiana, un altro modello fondamentale di spiegazione dell'esistenza del male. Questo modello dice, l'essere stesso è contraddittorio, porta in sé sia il bene sia il male. Nell'antichità era la concezione dualista, nel fatto che non esiste, cioè che esistono due principi paritetici sullo stesso livello, uno buono e uno malvagio, e uno cattivo. E nella versione moderna, il Papa dice, la versione evoluzionistica atea ritorna a questa stessa visione, cioè si suppone che l'essere come tale dall'inizio porti in sé il male e il bene. L'essere stesso non è semplicemente buono, ma è aperto al bene e al male. Ciò che i cristiani chiamano peccato originale sarebbe in realtà solo il carattere misto dell'essere, una mescolanza di bene e di male. Quindi è un po' quello che in realtà abbiamo un pochino subodorato anche in alcune opinioni teologiche che cercano di rivedere un po' la dottrina del peccato originale, no? Il male appare necessariamente nell'evoluzione, perché ci deve essere, l'evoluzione evolve verso una vita sempre più perfetta, ma intanto passa attraverso tappe che sono imperfette, che sono... Allora, cosa dice la Chiesa? Cosa dice San Paolo? E dice il Papa, in contrasto con i dualismi e i monismi, perché quello evoluzionistico è più un monismo, diciamo, cioè una visione unitaria dell'essere, ma in cui appaiono entrambe gli aspetti, di bene e di male. In contrasto con i dualismi e i monismi che abbiamo brevemente considerato e trovato desolanti, perché Paolo dice che non danno speranza, perché se il male è originario come il bene, oppure fa parte dell'essere come il bene, non c'è modo di eliminarlo, è ineliminabile. Quindi li abbiamo trovati desolanti. In contrasto con questo, la fede ci dice, esistono due misteri di luce e un mistero di notte, che è però avvolto dai misteri di luce. Due di luce e uno di buio, di notte. Giuseppe dice, quali saranno i due misteri di luce e quello di notte? Qualcuno ha qualche suggerimento, qualche idea? Mistero di luce, poi un mistero di buio e poi un mistero di luce ancora. Creazione e redenzione. Creazione, peccato e redenzione. Creazione nel senso che dice il Papa, il primo mistero di luce è questo. C'è un solo principio, il Dio creatore, non due principi. E questo principio è buono, solo buono, senza ombra di male. Quindi il creatore è Dio e Dio è buono, non è un po' buono un po' cattivo. L'essere che lui crea non è misto, non è mezzo buono mezzo cattivo, è solo buono. Perciò anche l'essere non è un misto di bene e di male, l'essere come tale è buono e perciò è bene essere, è bene vivere. Questo è il lieto annuncio della fede. Poi lui lo dice anche con altre parole molto belle, ma... Poi segue un mistero di buio, di notte. Qual è questo mistero? La caduta. La caduta. Dice, il male non viene dalla fonte dell'essere stesso, cioè non viene da Dio. Non è ugualmente originario. Quello che è originario è solo Dio, che è buono. Il male viene da una libertà creata, da una libertà abusata. E poi si chiede... Quindi viene da una libertà creata. Dopo dirà, siccome è creato, il male non sta sullo stesso livello del bene. E il bene è più forte, cioè Dio è più forte del male, perché? Perché il male non sta al suo livello, diciamo. Come è stato possibile? Come è successo? Ecco, qui il Papa non entra nei dettagli, non entra nella storia di Adamo e di Eva. Dice esattamente così, dice, questo rimane oscuro. Il male non è logico, solo Dio e il bene sono logici, sono luce. Il male rimane misterioso. Lo si è presentato in grandi immagini, come fa il capitolo 3 della Genesi, con quella visione dei due alberi, del serpente, dell'uomo peccatore. Una grande immagine che ci fa indovinare, ma non può spiegare quanto è in se stesso illogico. Possiamo indovinare, non spiegare. Neppure possiamo raccontarlo come un fatto accanto all'altro, perché è una realtà più profonda. Rimane un mistero di buio, di notte. Ecco. Su questo poi forse ci darà un po' di chiarimento quello che lui dice nell'85. Qui il Papa non entra molto nei dettagli. Senz'altro mi sembra che, ecco, questo bisogna riconoscerlo, questo modo di parlare del Papa qui sembra anche sensibile a opinioni o posizioni che destoricizzino un po' il peccato di Adamo ed Eva, eh? Cioè non, però non è, siccome non è esplicito, non, però uno dice non possiamo raccontarlo questo mistero di male come un fatto accanto all'altro. Vabbè, comunque non vorrei fare interpretazioni sbagliate, in fin dei conti il compendio è uscito quando il Papa era Papa, quindi quello parla di un fatto primordiale, di un avvenimento, per cui senz'altro il Papa sottolinea un po' la dimensione universale del male e del peccato. Comunque, il terzo mistero, quello di luce, il secondo mistero di luce, dice il Papa, è questo: il male viene da una fonte subordinata, una libertà creata. Dio con la sua luce è più forte e perciò il male può essere superato. La creatura, l'uomo, è sanabile. L'uomo è sanabile. E ultimo punto, dice, l'uomo non è solo sanabile, è sanato di fatto. Dio ha introdotto la guarigione, è entrato in persona nella storia, quindi la redenzione, no? Alla permanente fonte del male ha opposto una fonte di puro bene, Cristo crocifisso e risorto, nuovo Adamo. Cioè Dio di fatto ha già messo il suo rimedio, aperto a tutti, possibile a tutti. Cristo crocifisso e risorto, nuovo Adamo, oppone al fiume sporco del male un fiume di luce, e questo fiume è presente nella storia. Vediamo i santi, i grandi santi, ma anche gli umili santi, i semplici fedeli. Vediamo che il fiume di luce che viene da Cristo è presente, è forte. Quindi diciamo, è una visione essenziale quella che dà il Papa, però afferma il caposaldo di tutti i principi: il male non viene da Dio, il male viene da una libertà creata che ha abusato di sé ed è stato sanato, cioè è sanato da Dio in Cristo Redentore. Questo è quello che io ho trovato, diciamo, nel suo magistero e che anche viene suggerito nella bibliografia del corso. Sinceramente non, probabilmente ha toccato questo punto del peccato originale anche in altre parti, appunto quando in una omelia o catechesi parla della goccia di veleno, c'è come una goccia di veleno in noi, in un'altra ricordo che parlava del peccato originale come facendo riferimento al Salmo 50, nei peccati sono stato concepito nel peccato, dicendo che c'è come una forza di gravità. Usava l'immagine della forza di gravità che tira verso il basso, quindi peccato originale visto soprattutto come tendenza all'egoismo. Però ecco, penso che questa forse sia la cosa un po' più esplicita del suo magistero come pontefice. Invece, se guardiamo queste lezioni carinziane che vi dicevo, ecco qui. Era il 1985, e bisogna fare una premessa perché appunto era l'85, qui Ratzinger parlava come teologo e non quindi avendo sulle spalle la responsabilità di parlare a nome di tutta la Chiesa. Quello che lui fa è leggere il peccato originale soprattutto in termini relazionali, sia il peccato nei confronti di Dio, quindi possiamo dire di Adamo, sia poi la propagazione di questo peccato agli altri uomini è vista soprattutto in termini relazionali. Vi leggo la parte in cui dice questo, si trova nel libro, ecco, Ratzinger, una prima cosa che dice è che il racconto di Genesi letto alla luce di Romani 5 ci dice questo: il peccato genera il peccato, e tutti i peccati della storia sono in relazione l'uno con l'altro. Il peccato genera peccato. Diceva in precedenza che nel racconto di Genesi il peccato non è descritto in generale come una possibilità astratta, ma è rappresentato come una realtà, come il peccato di Adamo. Adamo che è all'inizio dell'umanità e dal quale proviene la storia del peccato. Qui storicizza abbastanza. Anche se, per come scrive lui, a volte lui utilizza anche i racconti, le immagini della scrittura, le mette nel suo discorso, ma non sempre le mette con l'intento di affermarne tutti gli aspetti, come anche quello della storicità. Magari però, per come lo dice, il punto fondamentale è questo. Come descrive? Ecco, poi dice: per questo stato di cose, che il peccato genera peccato, la teologia ha trovato il nome, certo, equivoco e impreciso, di peccato originale. La domanda è: cosa significa oggettivamente? Oggi, infatti, nulla pare più estraneo, per non dire assurdo, che affermare il peccato originale, perché la colpa, nella nostra concezione, può essere solo personalissima. Poi dice una frase forte: e perché Dio non comanda un campo di concentramento ove viga la responsabilità penale estesa alla famiglia. Cioè, Dio non è come uno che dice: ha peccato tuo padre, allora io condanno te, i tuoi figli. Allora, bensì, dice, è il libero Dio dell'amore che chiama ciascuno per nome. La domanda è dunque: cosa significa peccato originale, se vogliamo correttamente interpretare ciò che è inteso in quell'espressione? E dice, parla dell'uomo, dice che bisogna capire cos'è l'uomo. E dice, l'uomo ha il suo sé non in se stesso, ma addirittura al di fuori di sé. Spiega, egli vive in coloro che ama, in coloro dei quali vive e per i quali esiste. L'uomo è relazione e ha la sua vita, se stesso, solo nella modalità della relazione. Potremmo prendere questa frase come: l'uomo è relazione e ha la sua vita, cioè se stesso, solo nella modalità della relazione. Io solo non sono nulla, bensì sono me stesso, solo nel tu e verso te. Ferma con forza che l'uomo è persona, quindi è relazione, è soggetto, ma in relazione. Essere veramente uomini significa stare nella relazione d'amore, del da e del per. Penso che voglia dire del da, cioè che io ricevo me stesso, soprattutto da Dio, ma anche dagli altri, diciamo, dall'amore che hanno per me, e del per, che sono veramente uomo solo se so anche vivere io per donarmi, okay? Questa è un'introduzione, perché poi dirà che il peccato è fondamentalmente disturbo della relazione, è rompere, alterare o disturbare la relazione. Infatti dice poi: ma peccato, ha detto appena, essere veramente uomini significa stare nella relazione d'amore, del da e del per. Ma peccato significa disturbare o distruggere la relazione. Peccato è negazione della relazione, perché vuol fare dell'uomo un Dio. E perciò, interessantissimo, suppone un'errata immagine di Dio, come se Dio fosse irrelato, cioè non in relazione. Cioè, l'uomo che vuol fare se stesso da solo, senza Dio, e vuol fare se stesso nel senso di essere Dio, in fondo non capisce neanche chi è Dio, perché Dio non è a sé, da solo, ma è relazione. E Cosicché si sarebbe dei, pensa l'uomo, no? Si sarebbe dei se si fosse completamente autarchici e autonomi. L'uomo pensa di poter essere come Dio proprio essendo autonomo e autarchico, quando Dio non è così, non è così. Peccato è dunque l'idea di diventare Dio e di diventarlo secondo una falsa immagine. È il tentativo di aver bisogno solo di se stessi, di troncare ogni dipendenza, ogni rapporto. Non voler essere figli, no? Non voler essere figli. No? Penso che lo capiamo molto bene anche con questa idea così forte per noi che è la filiazione divina. Bene. Allora, arrivando a... è nucleato il nucleo del peccato, quindi dice... Adesso arriva alle conseguenze. Peccato è per natura, in quanto perdita di verità su di sé e su Dio, perdita di relazione, disturbo di relazione. E perciò anch'esso, il peccato, a sua volta non è mai chiuso da solo nel singolo io. Cioè, siccome il peccato è disturbo della relazione, la relazione è ciò che mi lega a un altro, mi riferisce a un altro e a degli altri, non è mai una cosa solo mia. Peccato è disturbo di relazione, e se io disturbo la relazione, questo svolgimento, forse una traduzione un po' sbagliata, comunque questo svolgimento, questo fatto, riguarda necessariamente anche gli altri portatori di relazione, la totalità. Perciò il peccato è sempre una colpa che riguarda anche gli altri, che cambia il mondo e lo disturba. Cioè, il mio peccato, il mio disturbare la relazione con Dio e con gli altri disturba necessariamente anche gli altri. E allora conclude e dice... poiché è così, cioè che il peccato è disturbo della relazione, non rimane solo in me ma disturba anche gli altri, poiché è così, è vero che se la struttura relazionale dell'uomo è disturbata fin dall'inizio, ciascun uomo entra dall'inizio, cioè dal primo uomo, ciascun uomo entra da allora in poi in un mondo segnato da quel disturbo di relazione. Se il primo ha disturbato la relazione con Dio e con gli altri, tutti quelli che vengono dopo entrano in un mondo segnato dal disturbo della relazione. All'essere umano stesso, che è buono, tocca un mondo disturbato dal peccato. Ognuno di noi entra in un intreccio in cui le relazioni sono falsate, a cominciare da quella con Dio. Pertanto ciascuno è disturbato fin dall'inizio nelle sue relazioni. Non le riceve come dovrebbero essere. Il peccato lo cerca ed egli lo compie. Vi leggo quello che dice, cioè vi leggo. A me sembra questo, poi vi dico quello che dice Don Giuseppe, commentando questo. Senz'altro c'è un fortissimo accento sull'aspetto relazionale del peccato, che mi sembra che inquadra molto bene soprattutto il primo peccato, e il fatto che effettivamente poi c'è un influsso dell'uomo sull'uomo, perché non siamo fatti per vivere come delle monadi, quindi davvero il peccato mio influisce sugli altri e disturba le relazioni. Da questo scritto, come dice Don Giuseppe, dice... Il Papa poi dice altre cose, anche in che senso l'uomo, negando la verità su di sé e su Dio, allora vive nella morte, perché l'uomo non può costruire a se stesso fuori dalla verità. Quindi parla della morte, ma dice Don Giuseppe, la pena della morte associata al peccato dell'uomo non viene compresa entro un orizzonte biologico, cioè come morte, almeno primariamente come morte fisica, ma interpretata primariamente come conseguenza sulla sfera spirituale. Cioè, la morte intesa soprattutto nel significato, che è vero, è presente anche nel racconto di Genesi, come abbiamo visto, di una morte dell'anima, dello spirito, del profondo dell'uomo, che taglia il suo rapporto con Dio e inquina anche tutte le sue relazioni con gli altri. E poi si chiede, Don Giuseppe, il lettore potrebbe chiedersi a questo punto: ci troviamo forse di fronte al suggerimento teologico di interpretare la propagazione per natura del peccato come propagazione per relazione? Cioè, Ratzinger qui sembra sostenere che come si trasmette il peccato da Adamo agli altri? Attraverso quelle relazioni malate, distorte, disturbate che Adamo stesso e Eva instaurano da quel momento con i loro discendenti. Quindi non per generazione. Quindi non solo non per generazione, ma il punto ancora più fondamentale è che, però, che mi sembra un punto critico, che comunque almeno lui non lo tratta qui in modo esplicito, è che sembra che di per sé la natura dell'uomo non subisca nulla come conseguenza. Semplicemente l'uomo, che dice il Papa, che è buono di per sé, entra in un mondo con relazioni falsate, quindi da subito è influenzato da queste relazioni falsate e lui stesso entra. Quindi per imitazione? No, neanche per imitazione, cioè, proprio per relazione. Poi Don Giuseppe dice: ne sorgerebbero conseguenze per la dottrina teologica classica circa la presenza di tale peccato fin dalla nascita. Qui sembra che la natura dell'uomo che nasce è buona e poi viene poi sorgerebbe come conseguenza il fatto che, ma allora la morte è o no conseguenza del peccato originale? Beh sì, in questa visione qui non lo sarà. L'uomo già vive nella morte, appunto, già vive, cioè, vive nella morte, però intesa come morte spirituale, morte che vive nel. Se volete vi dico come dice lui che. Non bastava chiamarlo in un altro modo invece che il peccato originale. No, però attenzione. Come? Un termine, perché il peccato sarebbe qualcosa che non è, diciamo. Infatti bisogna dire che peccato in senso analogico. Proprio perché chiamarlo peccato è. Però la sostanza di questo, ecco, che la Chiesa ci dice: l'uomo nasce senza la grazia, non è già in grazia, e ha una natura che è indebolita, che è soggetta, che ha la concupiscenza e che fondamentalmente poi ha la morte. Allora, sotto la spinta della concupiscenza, l'uomo poi. E senza la grazia, l'uomo poi fa danni, no? Fa peccati a destra e manca. In questa visione sembra che nella natura dell'uomo non ci sia qualcosa di diverso dopo il peccato originale, che l'uomo continua a nascere fondamentalmente così come era, però poi le relazioni in cui viene immerso lo spingono al peccato. Io voglio dire, cioè, questo è un'opinione teologica. Non è il Papa. E nell'ambito della riflessione teologica su come spiegare una realtà come il peccato originale ci sta. Io direi, mi limiterei a dire che Ratzinger qui accentua molto l'aspetto relazionale e mette in luce un aspetto del peccato sia originale sia anche della propagazione di questo peccato, che comunque è vero ed è importante. Lui qui esplicitamente non parla di altro, cioè quindi non entra in merito all'esistenza della morte fisica o come conseguenza o no del peccato, ecco. Quindi limita un po' la sua trattazione a questo aspetto relazionale. Estrapolando un po', sembra di poter dire che in questo momento lui vede soprattutto la trasmissione del peccato originale come un qualcosa che non. In spagnolo si dice affetta la natura dell'uomo, cioè non tocca la natura dell'uomo, non riguarda la natura, Però è un po' un'estrapolazione, che non, non è... Beh, ma non è una natura relazionale quella dell'uomo, quindi in un certo senso... Sì, però qui diciamo due cose diverse. Cioè, se l'uomo, diciamo, quando nasce, è o no in grazia di Dio? È un'altra obiezione. Ah, questo punto. E poi, seconda cosa, l'uomo è fatto per la relazione, ma muore o non muore? Soffre o non soffre? Ha la concupiscenza o non ha la concupiscenza? Questa è una cosa che è altrettanto natura, eh? Anzi, quindi su questi aspetti da cui uno potrebbe anche tirar fuori l'idea, no, questi aspetti per lui non ci sono, non sono una conseguenza del peccato originale, solo da quello che dice qui in questo momento penso che non lo possiamo concludere e che ci limitiamo invece a prendere questa luce sulla relazione, sul peccato come disturbo della relazione, che aiuta senz'altro molto bene a cogliere che tipo di peccato è stato quello commesso da Adamo, e anche un po' la radice del peccato, dei nostri peccati, che sono in fondo sempre un'alterazione della relazione con Dio, un rompere la relazione con Dio. Lui non sviluppa tutto l'argomento. Lui qui non sviluppa tutto l'argomento. Cioè, bisogna vedere anche il contesto della, esatto, sua predica, omilia. Esatto. Senz'altro per lui l'idea di relazione è centrale, anche lo si vede anche, un po' in tutto il suo magistero, quindi parla molto. Com'è? No. Parte tutta l'idea della relazione viene dalla Santissima Trinità, insomma, quindi esatto, sì. Dio è così piena. Beh, lui definisce Dio essere per l'altro, quindi che è un po' relazione. C'è una persona, diciamo, vive tra l'altra, quindi in certo, questo senso. Certo. L'uomo fatto in maniera somiglianza dovrebbe appunto vivere in questo. Certo. No. Infatti, tutto quello che dice lui è verissimo. Penso che almeno la dottrina della Chiesa non limita a questo aspetto, certo, il peccato e le sue influenze, perché dice no, viene intaccato proprio la natura dell'uomo, c'è la concupiscenza, c'è dentro di te dall'origine, non solo perché tu la ricevi dalle relazioni con gli altri. Questo a me sembra anche un dato incontrovertibile. Se uno guarda i bambini, prima che facciano tanti ragionamenti o che abbiano tanti influssi, quando ancora hanno solo l'affetto del papà e della mamma totale, eccetera, già tu vedi che il bimbo vuole le cose per sé. Se c'è il fratellino che gliela prende, dice, no, mio, cioè, è evidentissimo che quella è una cosa sua, cioè è un fatto che ha iscritto lui, non gli viene da perché ha visto gli altri fare così. Quindi c'è in noi una cosa che, no, che... Bene, dobbiamo concludere perché siamo in ritardo, la prossima volta faremo un po' di sintesi.